il male che gli uomini fanno. Il male che gli uomini fanno. Sento il beat Don Joe. Sento il beat Don Joe. Se adesso mi comporto male, peggio di un politico, è perché cattivi esempi fra li avevo già da piccolo. Pac-Man in macchina 300 all'ora. Pac-Man in disco con le paste viola. Sanpei con le canne di bambù. Popei tutto pieno di tattoo. Kenshiro pensavo fosse amore, invece era MDMA. È la mia crocifissione con in sottofondo il rap. Riscrivo i comandamenti, il primo è non farti sgamare. La mia roba è maledetta, la tua roba è detta male. Non mi diverto più perché la droga qua mi ha zerato la serotonina. Flow super boss come Don Totorina. Salgo in console, pazzia collettiva. E fate una cosa oggettiva. Sti rapper son peggio che troie, li rimando a casa via oggettina. Manco hai capito una cazzo di rima. In Italia tutti i gusti strani, giovani cantanti. In classifica meglio restargli dietro che davanti. Ringrazio per tutto il supporto lo zoccolo duro. E poi ringrazio pure tutte le zoccole dure. Se per te PD una bestemmia e non un partito ti dico bravo. PDL è la stessa bestemmia ma con l'aggiunta di ladro. Io cerco il modo più giusto di fare la cosa sbagliata. Tu scaglia la prima pietra, non l'abbiamo già tagliata. Se adesso mi comporto male, peggio di un politico, è perché cattivi esempi fra li avevo già da piccolo. Pac-Man in macchina 300 all'ora. Pac-Man in disco con le paste viola. Sanpei con le canne di bambù. Popei tutto pieno di tattoo. Kenshiro hanno una spada in mano e perché gli ricorda i men. O la polvere di pollon sembra talco ma non è. Zio se si fanno è perché affrontano la vita che gli danno. E a Milano c'è la neve ed è Natale tutto l'anno. E tu puoi fare sesso sicuro ma è sta città che ti ammazzerà. Ti stende per terra più della guerra che in nome del falso il mondo si fa. Lascio l'otto per mille a me stesso che senza preti io capo lo stesso. Non credo ai finti ribelli quando i principi sono una questione di prezzo. Frate, rubano in casa nostra come hanno fatto in cuva e poi ci succhiano il sangue come in Twilight. Tutti possono sapere i miei cazzi coi social network. Meno soldi, meno haters, ma non è uno scambio eco. Il network è in mano dei marci dell'arci, studiano di allontanarci. Frate i ragazzi che scopano in strada mentre la tele censurano i baci. Zio, meglio le brutte abitudini apprese da ieri, brutti pensieri. Meglio che questo paese bugiardo guidato da infami e da carabinieri. Se adesso mi comporto male, peggio di un politico, è perché cattivi esempi fra li avevo già da più. Pac-Man in macchina 300 all'ora. Pac-Man in disco con le paste viola. Sanpei con le canne di bambù. Popei tutto pieno di tattoo. Kenshiro Veniro. Il male che gli uomini fanno. Il male che gli uomini fanno. È sempre il male che vive dopo di loro, invece il bene viene seppellito con loro.